Le responsabilità all'interno della società, le responsabilità e quindi le decisioni politiche sono affidate principalmente a degli anziani, perché gli anziani rappresentano quella che è la saggezza, mentre gli adulti sono il coraggio e i giovani sono la temperanza. Al di là di questo, la prima cosa interessante che c'è da rilevare è che Platone in questo modo tenta di superare quella che è la divisione in classi sociali. E infatti Platone non ci parla di classi sociali, ma appunto di comportamenti, di attitudini, di forma mentis, e quindi poi la critica successiva rintraccerà in questo una sorta di protocomunismo platonico. Questo, vabbè, poi è un'altra cosa. Quindi, per esempio, nel libro primo della Repubblica, Platone ci spiega come il potere sia sì incontestabile, ma sempre a favore dei più deboli. Paragona poi, questo successivamente nel libro decimo e nel libro quarto, lo Stato a un organismo e quindi il compito dei filosofi governanti è garantire l'armonia tra le parti. Marx dirà tra le classi sociali, ma Platone non lo dice. E in particolare nel libro quarto, e con questo chiudo l'analisi platonica, Platone afferma: noi pensiamo di modellare una polis, polis sapete tutti la città-stato indipendente greca, modello greco, felice non prendendo pochi individui e rendendoli tali, ma considerandola nella sua interezza. E questo secondo me che deve essere un po' scolpito. Platone ci parla di un unico organismo. Ci parla di un unico organismo di cui riconosce le parti, ma il potere deve dedicarsi a questo organismo. Il potere deve essere macro-organismo, deve essere gestione della vita collettiva e quindi gestione della consociazione umana. Tra l'altro, questa cosa si ritroverà in Aristotele, che definirà gli uomini come zoon politikon, quindi come animali politici. E vedete il dualismo natura-cultura. Fondamentalmente questa concezione macro gestionale del potere si ritrova poi in tutta la classicità, che fondamentalmente, adesso qualcuno che magari ne sa più di me potrebbe rizzarsi i peli, però fondamentalmente le concezioni della classicità ricopiano Platone. Questo è, magari aggiungono qualcosa, ma fondamentalmente è un grande commento a Platone. Pensiamo per esempio a un altro retore, stavolta romano, che ci parla di politica, per esempio nel De Officiis, che sarà Cicerone, fondamentalmente adattato alla realtà romana, ma questo è. Tant'è vero che attraverso i secoli noi arriviamo all'età medievale. Età medievale, come sapete, sicuramente ci sono tanti miti sul Medioevo, tante falsità, tra cui in primis che era un'età buia, un'età in cui non c'era progresso, un'età di oscurantismo. Sicuramente da una parte c'erano questi elementi, ma altrettanto sicuramente in un'ottica illuministica sono sempre stati abbastanza esacerbati, anche abbastanza a caso. Pensatore fondamentale dell'età medievale è Agostino. È Agostino d'Ippona, che tra il 413 e il 426 scrive il De Civitate Dei. Il De Civitate Dei è sostanzialmente, De Civitate Dei cosa vuol dire? Ecco, già qua potremmo parlare 6 ore di cosa vuol dire De Civitate Dei. Fondamentalmente vuol dire riguardo la città di Dio, riguardo la città divina. In questo libro, Agostino, dopo aver difeso il cristianesimo contro gli attacchi dei pagani nei primi 10 libri, nei successivi 12, istituisce un parallelismo tra quella che è la civiltà e le città terrene, che in quel momento, attenzione, non è da sottovalutare, erano in preda alle invasioni barbariche. E c'era questo enorme tornado che ha sconvolto, anche qui, passatemi il termine, vi prego, l'Europa. Passatemi il termine, no, non esisteva l'Europa ovviamente. La cristianità, ecco, ha sconvolto la cristianità, potremmo dire così, che era ai suoi inizi, perché alla fine Cristo scusate, era nato da 400 anni, no, erano passati 400 anni dalla nascita di Cristo. L'esistenza terrena è definita come fondata dal diavolo e basata sui rapporti di carne. Invece si opponeva alla città di Dio, che invece era totalmente spirito ed era appunto fondata da Dio nei panni di Abele. Tuttavia non esistono queste due città, pure e semplici come fossero delle ipostasi, no? O meglio, esiste la città di Dio, fatta immagine e somiglianza di Dio, e su quella non si discute, l'uomo deve puntare a quella. Ma la città terrena ha degli elementi divini. Semplicemente però è corrotta poi dagli elementi corporei. Questo è interessante. Ma quello che ci interessa a noi per l'analisi del potere è che, paradossalmente, nello scritto principale, nell'opera più importante, famosa, di un uomo di chiesa, perché era vescovo, fondamentalmente, c'è la separazione netta tra potere terreno e potere divino. Quindi il potere e la sua gestione, le sue istanze, vengono separate nettamente in una dicotomia che era fondamentalmente prodotto del manicheismo a cui aveva aderito lo stesso Agostino. Il potere terreno è, diciamo, dovrebbe puntare a diventare immagine e somiglianza di Dio. Il secondo è un'emanazione della divinità stessa, quindi non c'è bisogno di dire che è sua immagine e somiglianza. Quindi appunto nella storia queste due città sono legate e si delinea quindi quello che poi sarà un po' la dicotomia, lo scontro, che poi diventerà vera e propria guerra di eserciti, tra il potere divino e il potere temporale. Questa è un po' una tendenza interpretativa che appunto ci porta più avanti nel tempo e ci porta, scusate, qui adesso vi faccio una di quelle giunture storiche di cui parlavo prima, breve ovviamente, non sono il professor Barbero, quindi purtroppo non sono così bravo. Appunto, quindi noi sappiamo benissimo che, diciamo, grosso modo, dall'anno 1000 in poi, quando non era finito il mondo e quindi era cominciato tutto quel periodo storico di progresso, di innovazione tecnologica che noi conosciamo come Alto Medioevo, nelle tesi di Goffman, di Le Goff, sappiamo quindi che da questo momento in poi si delineano un po' queste due tendenze, che sono due tendenze universalizzatrici. Questa è la fondamentale importanza, cioè la continua lotta mortale, in alcune occasioni, tra il papato, che rappresentava l'elemento divino, la guida spirituale del potere, quindi quella che doveva essere il pastore di greggi che conduceva le anime al paradiso, e il potere temporale, che invece doveva essere la guida politica vera e propria, corporea, terrena della vita di tutti i giorni. Attenzione, il potere temporale, il potere temporale, quello terreno, era Ancilla Fidei, quindi era la servitrice della fede, cioè era quello che doveva preparare l'uomo, l'anima dell'uomo, ad ascendere a Dio. Quindi in un certo senso, quantomeno nell'interpretazione delle sacre scritture, ma fino a ben dopo Carlo Magno sarà così, è il potere spirituale a essere quello più importante. E infatti sappiamo benissimo, e questo è un elemento di verità del Medioevo, che nel Medioevo l'importanza del potere spirituale della Chiesa cresce talvolta in maniera esponenziale, fino appunto ad arrivare all'800 dopo Cristo, che Carlo Magno viene incoronato imperatore dal Papa Leone III. E questo è un punto di svolta fondamentale tra queste due tendenze universalizzatrici, perché una attraverso questo gesto tra l'altro gesto fatto in pompa magna, cioè l'incoronazione di Carlo Magno avviene una notte, ma in realtà con 3 mesi di preparazione, quindi è un momento anche abbastanza solenne. In questo momento si ha un potere, un tipo di potere, quello spirituale nella fattispecie, che dice all'altro tipo di potere, quello temporale: guarda che tu senza di me non esisti, perché se io Papa Leone III non incorono Carlo Magno imperatore, l'imperatore non c'è. E questo sta dietro a tutta una serie di avvenimenti di quel tempo. In questa linea temporale, diciamo, si muove un altro pensatore che è il principale pensatore, qualcuno addirittura lo definisce il fondatore della teoria politica italiano, che è Niccolò Machiavelli. Sappiamo tutti oggi machiavellico cosa vuol dire. Machiavellico è un personaggio che va oltre qualsiasi principio morale pur di ottenere il suo proprio scopo. Machiavellico è una persona, c'è la parola esatta in italiano, di cui adesso non mi, tipo audace, sfrontato, non so come dire, però appunto sappiamo che cosa significa. Quindi, per Machiavelli, che scrive nel 1513-1514 Il Principe, vabbè, lui approfondisce molto tutti i tipi di principato, tutti i tipi di come conquistare il principato, come mantenerlo, perché sono caduti gli imperi nel passato e via dicendo. Quello che interessa a noi fondamentalmente è che introduce una nuova categoria. Attenzione, interpretata in modo nuovo, non nuova, perché l'etica esisteva, Aristotele ha scritto l'etica nicomachea, quindi esisteva già da secoli, millenni. Ma ci parla in particolare del legame tra potere e etica, potere politico, nella fattispecie, e etica, fondamentalmente sotto il motto di il fine giustifica i mezzi. Quindi l'etica non deve entrare nella politica, la politica non deve attenersi a nessuna regola morale. Ottenere il proprio scopo, che è quello deciso dal principe, quindi dal capo del principato, è quello che si deve raggiungere a prescindere da criteri morali, principi universali, principi singolari o leggi, o anche andare oltre la legge. Tanto la legge la fa il capo, quindi non è che si fa molto oltre. In particolare qui cominciamo ad analizzare un elemento interessante, la libertà. Perché? Perché in quel momento, in particolare con lo sviluppo dei comuni italiani, che avveniva dal 200 però continuava, la libertà si comincia a intendere la libertà come l'assenza di impedimento alla propria azione. Che è la libertà, se ci pensate, che ancora oggi vale, che è la libertà infatti del liberalismo e del neoliberismo. Ma quello che è interessante è che invece Machiavelli non fa questa operazione. Machiavelli intende la libertà come libertà di partecipazione politica della collettività, cioè come Platone. Quindi il potere in Machiavelli è ancora, nonostante stia avvenendo un passaggio, e tra l'altro lo vedremo tra poco, il passaggio cruciale sarà 60 anni dopo Machiavelli, non 5.000 anni dopo. Ancora c'è l'idea che il potere, che lo Stato, il potere politico sia un organismo e che quindi il potere debba intendersi come una totalità, un'interezza, composto di parti, di cui bisogna mantenere l'armonia, eccetera, eccetera. Ma fondamentalmente è un'interezza, è ancora un macropotere che ci parla di gestione del potere nei macroagglomerati sociali. Macro, ovviamente, anche il comune di 2000 persone era macro, non, sicuramente Machiavelli non si immaginava le megalopoli di 20 milioni di persone come ci sono oggi, però nel suo contesto il macro era quello. C'è un'altra interessante concettualizzazione che tocco solo così velocemente, perché poi ci servirà per capire dopo i contemporanei. Il conflitto per Machiavelli non è un problema. Il conflitto dà dinamicità all'organismo, muove l'organismo, quindi non è una forza negativa. Certo, non deve arrivare a distruggere il potere costituito. Per quello, tranquillissimo, c'è l'esercito, dove non si può arrivare con la decisione politica, il carisma, tra virgolette, ci arrivano le armi senza problemi per Machiavelli, senza nessun tipo di remore. Quindi ecco, il termine che cercavo prima è la spregiudicatezza. Lo spregiudicato è colui che può diventare principe, che ha la prima qualità, non sufficiente ma necessaria per diventare principe. Questa quindi è la teorizzazione, diciamo, culmine di quella che potevamo già trovare in Platone. Probabilmente Machiavelli non conosceva Platone, si presume, ma magari anche sì, perché era il Rinascimento, era l'umanesimo, la riscoperta delle umane lettere, quindi della grecità, della latinità e della classicità, quindi in realtà potrebbe essere. A proposito, noi abbiamo parlato adesso di Rinascimento. Come sapete, tradizionalmente, non tutti sono d'accordo, ma molti sì, la modernità inizia fondamentalmente alla fine di questo periodo. Quindi la modernità inizia fondamentalmente dopo la, aspettate, sì, scusate, stavo confondendo le due cose. La modernità inizia poco dopo, nel senso che nel frattempo c'è la guerra dei 30 anni, che è fondamentalmente una guerra sì di religione, ma una guerra è geopolitica, fondamentalmente, perché è il massimo raggiungimento delle due pretese universalizzatrici di papato e impero, che però si rendono conto che non hanno più la forza per essere pretese universalizzatrici, perché nel frattempo da una parte c'era stata tutta la divisione degli Ottone, che avevano diviso fondamentalmente quello che era il Sacro Romano Impero germanico, e dall'altra parte, dal punto di vista papato, c'era stato quella bomba atomica che è stato Martin Lutero, che è stato il luteranesimo, poi l'ulteriore divisione con gli inglesi, con la nascita della Chiesa anglicana, con Enrico VIII e via dicendo. Quindi entrambi i poteri avevano ancora delle pretese universalizzatrici, ma che in quel momento ormai erano solo teoriche. E se ne rendono conto, e come tutti gli animali che si rendono conto di essere in trappola, diventano più violenti. Questo è fondamentalmente. Quindi 1618-1648... c'è la guerra dei 30 anni che si conclude con la pace di Westfalia, che segna un po' la modernità, perché nascono gli stati-nazione, intesi modernamente, non in modo contemporaneo, ma modernamente. Questo filosoficamente a cosa si accompagna? A due enormi figure filosofiche, che sono Thomas Hobbes e John Locke. E non è un caso, tra l'altro, che siano due inglesi. Non è assolutamente un caso, perché l'Inghilterra era geograficamente separata da tutta questa situazione e quindi anticipava un po' quelli che erano i tempi. Infatti comunque sono vicini, ma scrivono un po' prima del Trattato di Westfalia, perché comunque Hobbes scrive il suo Leviatano nel 1651 e Locke i suoi trattati sul governo poco dopo, adesso non mi ricordo esattamente. E Hobbes scrive il De Cive nel 1642, quindi comunque quello è il periodo. In particolare, infatti, prendiamo queste due opere, prendiamo il De Cive e il Leviatano, e invece di Locke parliamo un po' dei due trattati sul governo. Nel Leviatano, adesso voi non so se ce l'avete presente, ma il Leviatano ha un frontespizio, cioè la copertina, con il Leviatano, il mostro biblico, il cui corpo era composto delle teste dei sudditi. Era un sovrano, il cui corpo era composto di teste dei sudditi. Quindi nel Leviatano Hobbes delinea un potere che è assoluto, inquercibile, perché lo stato di natura, quindi quell'ipotesi metodologica, questa è particolare. Lo stato di natura, in tutti coloro, tra l'altro, che l'hanno ipotizzato, quindi da Hobbes a Spinoza, a Locke, a Rousseau e via dicendo, è un'ipotesi metodologica. Loro non credevano che l'uomo avesse mai avuto uno stato di natura. Quindi questa ipotesi metodologica in Hobbes assume le forme di un bellum omnium contra omnes, quindi una guerra di tutti contro tutti. Quindi lo stato di natura per l'uomo, la natura dell'uomo, è homo omni lupus. L'uomo è lupo per un altro uomo. Quindi nella guerra, nello stato di natura c'è una condizione di guerra totale. Di guerra totale in cui per soddisfare le proprie pulsioni più profonde, l'uomo è disposto a ammazzare, violare la libertà, imprigionare e via dicendo. Per uscire da questo stato di ferinità e per conservare quindi la vita, perché l'istinto all'autoconservazione c'è sempre, L'uomo si associa attraverso il contratto sociale. Hobbes, tradizionalmente per la teoria giusnaturalistica, quindi per Pufendorf, Grotius e via dicendo, si divideva in due momenti, che era il pactum unionis e il pactum subictionis, quindi il momento in cui ci si univa in un consorzio umano e il secondo momento in cui ci si sottometteva a un potere sovrano. Per Hobbes, questi due momenti sono unici, è uno solo, e si risolvono tutti e due nel momento della sottomissione. In particolare, il momento della sottomissione in Hobbes ha dei tratti particolari, perché il potere che si delinea, quel sovrano, non è parte del contratto sociale, quindi non è sottoposto ai suoi vincoli. Solo la parte soccombente, i sudditi, invece sono tutti costretti entro i suoi limiti. Questo cosa ci porta a dire? Che il potere di Hobbes, il potere in Hobbes, scusate, è assoluto, nel termine latino, absolutus, sciolto da legami, non ha legami, non ha vincoli, non ha reti che lo tengano, è incoercibile, è indivisibile e soprattutto è unico, spirito religioso e terreno. Quindi il re è anche il papa, fondamentalmente. La cosa che ci interessa per la concezione del potere di Hobbes, perché ci proietta nella modernità, è una cosa particolare. Hobbes è considerato il campione dell'assolutismo, ed è vero. Ed è vero perché le sue conclusioni, sia del De Cive che del Leviatano, ci portano verso questa direzione. Ma c'è una cosa particolare che fa di Hobbes uno dei tre padri del liberalismo, che invece sarebbe in teoria la tendenza contraria all'assolutismo, e cioè la sua concezione di libertà. Hobbes comincia a rafforza ulteriormente la concezione di libertà come assenza di impedimenti al proprio agire. Quindi fa un'operazione concettuale semplicissima ma fondamentale per noi, non nel regno dei cieli, per noi adesso. Prende la libertà, intesa come partecipazione collettiva alla vita politica, greci, e la fa diventare una libertà privata. E addirittura, poi lo vedremo, solipsistica. Cioè una libertà che è solo e soltanto per l'individuo, a prescindere dalle altre individualità. Una libertà, quindi, che non ha nessuna correlazione con la collettività. Perché? Perché la libertà, per Hobbes, è totale libertà di agire dell'individuo e quindi di soddisfare le proprie pulsioni. Questo è fondamentalmente. Questo poi raggiungerà nel Novecento degli apici incredibili con il pensiero di Stirner, che vabbè. Accanto a lui, negli stessi periodi, si posiziona John Locke, un altro inglese per l'appunto, che scrive due trattati sul governo. Locke invece è uno dei massimi teorici, questo pienamente, del liberalismo, perché Locke prende in considerazione anche lui lo stato di natura come ipotesi metodologica, non ci dice che lo stato di natura è uno stato di guerra totale, ci dice che ci può essere convivenza ma che effettivamente ci sono dei rischi, perché l'uomo non è cattivo però è imprevedibile, diciamo così. E nello stato, quindi lo stato di natura è diverso da Hobbes, e quindi il patto sociale di Locke sarà diverso da Hobbes. Locke dice: il potere ha tante prerogative, più o meno tutte giuste, però il potere ha tre limiti, concetti limite di cui parlavo prima. Quindi vedete, Locke fa questo, definisce il potere in base ai limiti che il potere stesso ha, ai concetti che delimitano il potere. In particolare Locke individua tre diritti fondamentali che sono inalienabili e assolutamente da garantire per il potere. Scusate. Che sono principalmente tre: la libertà, la vita, il diritto alla vita, e il diritto alla proprietà privata istituita mediante lavoro. Pilastro sacro del capitalismo moderno, del liberalismo, del neoliberismo, come volete chiamarlo, è la proprietà privata, che infatti è il pilastro da cui parte Marx nella sua critica, da cui parte no, però sicuramente uno degli snodi fondamentali della teorizzazione marxiana. Quindi per Locke c'è questi tre concetti limiti del potere, che sono i diritti inalienabili. Il potere, diciamo, il potere supremo per Locke è quello legislativo, che deve garantire fondamentalmente la proprietà privata istituita mediante il lavoro. Locke fa una cosa particolare che è molto moderna, questa a me piace un pochino di più delle altre, prevede il diritto di resistenza al potere, qualora il potere non garantisca questi tre diritti inalienabili fondamentali. Quindi questo è un po' come si sta evolvendo la teorizzazione del potere. Come vedete, sta avvenendo un'inversione assiologica che è fondamentale per la teorizzazione successiva. Si sta partendo da una concezione molare del potere, piano piano passando a una concezione molecolare del potere. Sta passando dalla collettività intesa come organismo dotata di parti, questo nessuno lo nega, ma intesa come un'interezza, a la parte che forse può comporre un'unità, ma magari anche no, la libertà di fare quello che si vuole. Nel frattempo, in mezzo, succedono... Fin qui è tutto chiaro? Sono stato chiaro, ok, perfetto. Appunto, tra questi due autori, storicamente, si pone la fine della guerra dei Trent'anni, la pace di Westfalia e l'inizio degli Stati-Nazione, quindi la fine delle pretese universalizzatrici dei due poteri papato e impero. Quindi 1648. Cent'anni dopo, che capirete possono sembrare un'infinità, ma sono anche abbastanza se sono graduali, sono anche abbastanza veloci. Cent'anni dopo, nella seconda metà del Settecento, si data la prima rivoluzione industriale. Prima rivoluzione industriale che parte dall'Inghilterra. E non è, e tutto questo, appunto, non è un caso che Hobbes e Locke siano inglesi. Quindi nasce un po', nasce in realtà no, si sviluppa in maniera esplicita quella che è la corrente liberista. Non è un caso che Adam Smith scriverà il suo Ricchezza delle Nazioni in quegli anni lì. Se non sbaglio è il 1770, ma prendetelo con le pinze. Comunque Adam Smith nella seconda metà del Settecento scrive la Ricchezza delle Nazioni, che è l'archetipo di tutta la teorizzazione del liberalismo, del liberismo. Sinfonia che cambierà poi cent'anni dopo, nella metà dell'Ottocento, con la seconda rivoluzione industriale. Seconda metà dell'Ottocento, di chi potremmo mai parlare che parla di potere e di politica? Di Karl Marx. Non è che potevamo andare troppo lontani. In particolare scrive il Capitale. Il Capitale, adesso lungi da me avere l'arroganza di dire che ho capito il Capitale, perché no. Però diciamo in quelle 5-6 pagine che penso di aver capito, Marx fondamentalmente ci parla del potere e lo fa nella sua declinazione più economica. Ci parla per esempio di potere d'acquisto, di feticcio della merce, che potrebbe essere, secondo me, questo magari è una bestemmia, però secondo me potrebbe essere inteso come il potere che la merce esercita sul lavoratore e sul consumatore. Ci parla del rapporto tra classi, individuando la guerra sociale, individuando quindi il conflitto tra le classi, che quindi esercitano della pressione, del potere le une sulle altre, i proletari con lo sciopero, con il sabotaggio e via dicendo, e i padroni invece con il ricatto salariale, con i famosi crumiri e via dicendo. La cosa interessante è che a livello mondiale, nel 1870, nella seconda metà dell'Ottocento nasce quello che potrebbe che poi Benedetto Croce qualche anno più tardi definirà il neoliberismo, ed è quindi una corrente un po' diversa, perché fondamentalmente il liberalismo diceva: lo Stato, il potere politico, non si deve mettere nell'economia. L'economia si regola con la mano invisibile del mercato, Adam Smith. Quindi lo Stato, addirittura si teorizzava lo Stato minimo, Stato sentinella, cioè lo Stato doveva garantire solo e soltanto la sicurezza del mercato, basta. Ma il mercato si autoregolava con i tassi di interesse, con le speculazioni, perché la prima speculazione risale all'inizio del 600 in Olanda, attraverso delle leggi non legislative del potere, ma delle leggi autoconsegnate dal mercato stesso e via dicendo. Il neoliberismo non fa assolutamente questo ragionamento, anzi il neoliberismo proclama la necessità fondamentale dello Stato per regolare il mercato. Regolare i flussi di merci, regolare la costruzione delle macchine, regolare la concorrenza. Infatti, il concetto di monopolio nasce in quel momento lì. Tra l'altro, queste poi saranno anche delle tendenze che verranno esplicitate da famosissimi, quanto io reputo... vabbè, fa niente. Da famosissimi... teorici dell'economia che faranno parte di tantissime tendenze, ma che saranno sussunti sotto questo cappello, da Hayek a von Mises a Milton Friedman, che teorizzavano cose diverse, ma fondamentalmente erano questo. E pensate per esempio a tutti i Chicago Boys, la scuola di Chicago, quanto influenzerà il mondo, tanto da fare un colpo di Stato in Cile, quello sarà. Scusatemi, divagazione, tornando a noi, quindi Marx pone il potere nei termini del potere economico, questo è, individua la struttura del potere economico che sta alla base delle sovrastrutture che poi saranno il potere politico e via dicendo. Non abbiamo parlato di Jean-Jacques Rousseau. Nel suo contratto sociale si pone un po' come faro della democrazia. Quello che ci interessa è che Rousseau individua il potere come decentrato, innanzitutto, in assemblee federate, e condiviso, perché lo stato di natura per Rousseau è un'ipotesi metodologica positiva, perché l'uomo è buono. E infatti sono famosissimi i passi di Rousseau che ci dice che il più grande criminale della storia è colui che ha messo dei recinti al terreno e ha detto questo è mio. Tra l'altro io ho trovato molto interessante la teorizzazione pedagogica di Rousseau, che nell'Emilio fa esattamente il processo inverso. Il bambino nella sua educazione comincia l'educazione nella sua privatezza, rapportandosi quindi a se stesso, e conclude la sua educazione in società, trovando una moglie, sposandosi e via dicendo. Quindi è interessante l'inversione. Nel corso dell'Ottocento, allora ecco, l'Ottocento produce una serie di pensatori grandissimi, geniali, nel bene e nel male secondo me, geniali per quanto riguarda la teorizzazione e la concettualizzazione del potere. Uno su tutti è Weber, Max Weber, sociologo, sapete, famosissimo. Quello che ci interessa è che lui pone il potere nei termini della... Minchia, devo muovermi. Nei termini della legittimazione del potere stesso. La legittimazione, molto schematicamente, perché Weber è schematico, è scientifico. La legittimazione del potere può venire per tre vie. Quella della tradizione, quindi classica, quindi la giustezza, la sacralità dei costumi, delle abitudini degli antenati. Oppure un potere può essere legittimato dal carisma del capo, quindi da quanto il capo riesca a influenzare i suoi sottoposti. E può essere, la legittimazione in terza istanza, può essere legale, quindi dovuta all'obbedienza di regole. Questo fondamentalmente è interessante notare, e qui forse ritroverete qualche eco di cui abbiamo già parlato, che la politica per Weber è basata sulla violenza. Niente ha a che fare con l'etica. Qui forse vi ritorna un fiorentino di qualche secolo prima. E questo è un po', diciamo, quello che si propone come teorizzazione generale. È interessante notare che qui il potere segue un po' il suo corso di riduzione, perché parla di capi, parla di individui, parla di molecolarità del potere. Poi attenzione, è ovvio che una persona come Weber ci parli anche della gestione dello Stato macro, ma il problema è che la loro centralità teorica si concentra su un'altra cosa. La produzione massima teorica di questi pensatori, non tutti, non sempre, questo è ovvio, si concentra su delle particolarità del potere. Ovviamente i punti più alti della loro teorizzazione hanno la concezione di un organismo unico, questo è ovvio, ma ci si concentra sull'individualità. Ok, adesso c'è una. Dunque, adesso noi quindi stiamo passando alla contemporaneità. Fondamentalmente, allora, a livello di cesura storica, la contemporaneità, come sapete, inizia con il congresso di Vienna del 1815. 1815, congresso di Vienna, che quindi pone fine all'epoca napoleonica, alle conquiste napoleoniche, quindi pone fine all'ultimo grande sogno imperiale, perché Napoleone fondò il secondo impero. L'ultima grande pretesa universalizzatrice di Napoleone, e infatti poi morirà 6 anni dopo a Sant'Elena in esilio e via dicendo. A livello storico nasce qui, diciamo, la contemporaneità. Ci sono poi le varie guerre di indipendenza, il 48, il 66 e via dicendo. L'unità degli stati nazione, la Germania e l'Italia, principalmente. La Francia anticipa un pochino, ma la Francia aveva avuto tutto il processo illuministico, di uscita dall'oscurantismo, bla bla bla e via dicendo, di critica al potere politico, quindi però insomma stiamo parlando del giro di 50 anni, di 70 anni, che i tre grandi. Le tre più grandi territorialità hanno l'indipendenza e l'autonomia. Quindi passiamo quindi col tempo alla contemporaneità, 1870, la seconda rivoluzione industriale, nascita del neoliberismo e via dicendo. Qui nasce fondamentalmente quel processo di spartizione del mondo che poi porterà alla grande macelleria sociale della Prima Guerra Mondiale. Perché la Prima Guerra Mondiale è fondamentalmente l'apice di questo processo qui. Quindi la Prima Guerra Mondiale ci fa entrare nel Novecento. Dalle questioni irrisolte della prima, vedete come sto andando un po' sbrigativo anche perché è un po' troppo che sto parlando, spero di non annoiarvi. La prima guerra mondiale ci porta con le sue questioni irrisolte, alla seconda guerra mondiale, alla mattanza del Terzo Reich, cose che vabbè, sappiamo tutti. Dopo fondamentalmente questo anche un pochino quasi stop del pensiero, perché fondamentalmente ci sono tanti pensatori, da Mikels a Nozick a Benedetto Croce, Gaetano Salvemini e via dicendo, Martin Heidegger, Nietzsche, cioè nomi Husserl, nomi enormi della filosofia, giganti. Fondamentalmente però la riflessione sul potere rimane un pochino quella principalmente marxista da una parte e poi quella allineata al potere quando non era marxista. Al potere intendo proprio contestuale. Se non che abbiamo una grande riflessione che nasce in quegli anni, nel 26, che è Michel Foucault. Foucault, grandissimo filosofo, sociologo, poi Foucault è diventato tutto quanto, quindi è diventato niente. Però Foucault fondamentalmente era un sociologo e lui si definiva archeologo del sapere. Foucault appunto nasce nel 26, muore nell'84 e quindi vive anche tutta una serie di, a parte che vede il nazismo, la seconda guerra mondiale e via dicendo, ma soprattutto lui si appassiona molto alle lotte contro il potere, come potrei definirle, meno famose, meno micro. Lui, per esempio, va in Tunisia, in Algeria, durante le rivolte del Maghreb, negli anni 70-80. Poi morirà appunto di AIDS nell'84. Quindi Foucault fondamentalmente, allora, è un gigante. Per parlare di Foucault dovremmo, e io lo farei molto volentieri perché sono un grande appassionato, però non si può. Meriterebbe 2 giorni di discussione sulle sue opere. Quello che interessa a noi è che tipo di concezione del potere viene fuori dalla teorizzazione di Foucault. In particolare, lui lo fa. Attenzione, voi in giro potete trovare 100.000 libri di Foucault, scritti da lui, però ce ne sono 4-5. Il resto sono sue lezioni, i suoi appunti, le sue interviste, i dialoghi, i colloqui e via dicendo. La maggior parte degli scritti di Foucault sono i suoi studenti che hanno raccolto gli appunti e i vocali delle le registrazioni vocali delle lezioni e li hanno messi insieme. Quindi Foucault in realtà ha scritto forse 8 libri, una roba del genere. Quello che ha scritto Foucault, per esempio, il più famoso è Sorvegliare e punire. C'è un altro che è molto interessante, che è la storia della sessualità. Allora, in Sorvegliare e punire, Foucault ci dice una cosa relativamente semplice, ma anche difficile. Scusate, faccio un passo indietro, se no non si capisce. La concettualizzazione di Foucault si concentra su come, dalla modernità in poi, che lui definisce appunto iniziata nel XIX secolo, quindi nell'Ottocento, però nella seconda metà, ci dice: il potere ha capito una cosa, che la repressione, la condanna a morte, l'inquisizione, la pubblica gogna, la mercé, la berlina, ok? Non funzionano più. Basta, perché la gente fa le rivolte per sta roba qua. Infatti, il Medioevo, le cronache del Medioevo sono piene zeppe di rivolte nate dall'esecuzione pubblica di un carcerato. Ma piene zeppe, pi veramente pienissime. Quindi, attenzione, cioè, la rivoluzione francese, qual è la prima cosa che fa? Va a distruggere un carcere, la presa della Bastiglia, che era un carcere militare. Quindi non è che dobbiamo andare troppo lontano. Foucault dice: il potere ha capito che non serve più uccidere, ma anzi è molto più utile garantire la vita. Perché se tu garantisci la vita, hai il controllo su di essa. Fonda quindi il concetto di biopotere, cioè il potere sul bios, sulla vita. In particolare, quindi, per esempio, in Sorvegliare e punire, lui fa proprio questa panoramica del potere. Si è passato infatti sono significativi anche i titoli che lui dà ai capitoli di Sorvegliare e punire. Si è passato dalla delizia delle pene, dalla magia dei supplizi, questi sono dei termini che usa lui, al panopticon. Cos'è il panopticon? Il panopticon è un modello di prigione che era stato tra l'altro teorizzato per primo da Jeremy Bentham 300 anni prima, se non sbaglio, che consente alla guardia o alle guardie di vedere tutti i carcerati, perché sono in una struttura verticale centrale, e il carcere è costruito intorno a questa struttura, di modo che le guardie possano vedere i carcerati, ma i carcerati non possono vedere le guardie, di modo che i carcerati non sanno mai se sono davvero sorvegliati e di conseguenza, nel dubbio, si comportano come se fossero sempre sorvegliati, non commettono più crimini. Questo però, dice Foucault, non è un potere repressivo, questo è un potere disciplinare. È una tecnologia di potere che mira alla disciplina del corpo, al disciplinamento del corpo. Nella sua panoramica, quindi, lui dice: siamo passati dal supplizio medievale, per esempio, ma anche dell'Inquisizione, non per forza medievale, siamo passati dalla gente che veniva scorticata viva, quindi proprio da anche una spettacolarizzazione della violenza, del sangue, della carne, del martoriamento del corpo, a un regolamento, una precisa norma di vita che invece disciplina l'igiene, disciplina gli orari, disciplina la cura degli oggetti intorno a sé e via dicendo. Il potere quindi non è più tanto repressivo, ma forse usando i termini che potrebbe usare Marcuse diremmo addizionale. Il potere è repressivo, sì, ma è addizionale perché è ovvio che esistono ancora le prigioni, i manicomi, le scuole, le caserme, gli ospedali, queste sono tutte istituzioni totali che Foucault analizza abbastanza dettagliatamente, ma sono gestite in modo diverso. E infatti lui in Sorvegliare e punire, nella seconda parte in cui parla più della modernità, fa un interessante parallelismo tra quelle che sono le caserme e le scuole. Perché dove esistono le file militari, le righe militari, esistono le file di banchi. Laddove c'è il generale che parla ai soldati, c'è un professore su un gradino, quindi che vede ma non è visto, panopticon, gli alunni. Quindi lui fa tutta questa serie di parallelismi e fondando così il concetto di biopotere prima. Dedica tantissimo spazio, uno spazio veramente enorme, alla sessualità, al comportamento sessuale, perché egli identifica una cosa molto particolare, che dalla modernità noi abbiamo avuto bisogno di identificarci sessualmente, questo lui dice. Infatti tra l'altro La storia della sessualità si compone di 4 volumi, l'ultimo tra l'altro è uscito nel 2018, e sono molto esplicativi i titoli, perché il primo volume si intitola La volontà di sapere, che quindi lui dice ci sono delle pratiche discorsive. Il potere non solo ti dice che nulla, non solo ti dice tu puoi parlare del sesso, dei tabù sessuali, ma poi ti dice anche come ne devi parlare. Ti dice parlane, anzi parlane tanto, e c'è una proliferazione di discorsi, di pratiche discorsive, di modelli, di schemi, di tabù. E lui riprende tra l'altro la concezione di tabù freudiana. Che invece quasi obbligano il soggetto a parlare di sessualità, ma negli argini del potere, negli argini che decide il potere. Quindi è un potere, una tecnologia di disciplina, non è una tecnologia di repressione. Non c'è nessuno che ti ammazza, c'è qualcuno che però ti dice parlane, ma parlane come dico io, senza però fartelo notare. Quindi scusate, finisco, non voglio tediarvi. Quindi praticamente si è passato da una dimensione di vendetta del potere, il supplizio sul corpo del condannato, a una dimensione di gestione della vita, della vita, quindi al biopotere. Tant'è che Storia della sessualità parla appunto di come gli schemi discorsivi sulla sessualità si siano modificati nel tempo e siano diventati dispositivo di potere. Dispositivo è una parola molto precisa in Foucault, dispositivo di potere dalla modernità in poi. E il corso principale di Foucault, non ti mette tra 10 minuti ha smesso di parlare, il corso che l'ha portato alla ribalta, il corso più partecipato forse della sua vita, è La nascita della biopolitica. Attenzione, Nascita della biopolitica non è un libro, un'opera scritta da Foucault. Nascita della biopolitica è un corso che lui ha tenuto negli anni 70 al Collège de France, che era la Sorbona fondamentalmente. Nella nascita della biopolitica Foucault parte da un evento molto preciso. Attenzione, analizza diversi eventi, ma La nascita della biopolitica si concentra sull'analisi molare del potere, quindi nella sua dimensione macro, a partire dal 1971. Cioè dall'uscita degli Stati Uniti dagli accordi di Bretton Woods, cioè quando è nata la finanza. Perché? Perché uscendo dagli accordi di Bretton Woods, che erano stati stabiliti non a caso nel 1944 da Churchill, eccetera, da Roosevelt e via dicendo, quando Reagan decide di uscire nel 1971 dagli accordi di Bretton Woods, stacca il valore della moneta dal valore dell'oro, creando fondamentalmente così una moneta digitale. Ok, il primo bitcoin della storia, se vogliamo, e quindi creando quella caratteristica aleatoria che è la finanza, che è fondamentalmente la finanza, io credo si possa definire come la dematerializzazione dell'economia. Questo è un po'... Lui parte da quel momento, da quel momento preciso, e dice, in quel momento si è creata tutta una serie di pratiche che hanno portato a staccare prima il valore della moneta dalle riserve di oro dello Stato, la Federal Reserve, ma poi anche a smolecolare le identità, sessuale in primis, ma anche poi territoriale, anche poi sociale e via dicendo. Non a caso, tra l'altro, gli anni 70 sono stati l'ultima livello mondiale, l'ultima esplosione di conflitto sociale che poi è stato completamente risucchiato negli anni Ottanta. Quindi scusate, in quel momento in poi la contemporaneità, il potere contemporaneo ha capito l'importanza del disciplinamento dei corpi e quindi l'ha implementato, anche se era già iniziato ben prima, e ha creato quello che poi lui definirà volontà di sapere, che è la continua ricerca, il continuo anelito a parlare di qualcosa, a parlare fondamentalmente, lui dice, della sessualità, ma in realtà poi il disciplinamento dei corpi avviene, lui farà un corso molto interessante che poi è diventato un'opera non scritta da lui, che è Sicurezza, territorio e popolazione, in cui parla di come sia fondamentale per il potere avere degli organi come l'Istat, avere delle statistiche che ti dicano quanta gente nasce ogni anno, come viene concepita, vabbè, nel senso, quanta gente nasce ogni anno, con che distribuzione geografica, con che distribuzione di sesso, con che appartenenza sociale e via dicendo, perché il potere è bios, quindi incentrato sulla gestione della vita quotidiana. Concludo, scusatemi, con l'ultimo autore. Tra l'altro in quel tempo diciamo contemporanei a Foucault si svolgono tutta una serie di teorizzazioni molto interessanti, anche piuttosto difficili, che vedono per esempio la teorizzazione della perdita di unità sintattica, per esempio, grammaticale, Derrida. Derrida ci parla del concetto di citazionalità e di come citando le cose tu le togli dal contesto, quindi togli l'identità della struttura grammaticale, via dicendo, passando al pensiero rizomatico di Deleuze, quindi Deleuze ci dice non bisogna pensare per gerarchie, per connessioni verticali, ma per connessioni rizomatiche, sapete il rizoma si sviluppa orizzontalmente, no? Quindi il linguaggio si sviluppa attraverso connessioni inedite, attraverso nuovi termini, nuovi usi di vecchi termini e via dicendo. In alcune poi teorizzazioni che secondo me sono anche a volte al limite dell'incomprensibile, però questa è la mia opinione. E via dicendo, poi appunto. Questa è un po' la tendenza di quello che viene definito post-modernismo o post-strutturalismo. Arrivando, quindi, entrando nel nostro secolo, io ho pensato di analizzare un autore che ho deciso, vi dico la verità, ho deciso di portarlo perché è sudcoreano, perché orientale non è occidentale. Questa è la. Perché pensavo di ritrovare nella sua concezione un qualcosa di inedito, un qualcosa di nuovo. In realtà poi è un sudcoreano che però è andato in Germania quando era piccolino, quindi vabbè. Però comunque ha una concezione molto interessante. Sto parlando di Byung-Chul Han, che appunto adesso è ancora vivo, lui insegna ad Heidelberg, se non sbaglio, a Friburgo, comunque in Germania, e lui riprende un po' quello che era il filone, il cui rappresentante massimo è Bauman, ok? Quindi voi sapete la società liquida, il denaro liquido, l'amore liquido, eccetera, la liquidazione del mondo. La sua opera più famosa è La società della stanchezza, in cui lui analizza l'iperproduttività tipica del neoliberismo, ma in realtà quello che ho letto io e che mi interessa sottoporre è che cos'è il potere. Un'opera del 2005 che fondamentalmente analizza molecolarmente, quindi momento per momento, non più molarmente, il potere come influenza nella relazione. E infatti i termini che lui usa, per esempio, per identificare le due parti, i due poli all'interno della relazione di potere sono ego e alter. Io e l'altro. E lui analizza il potere, divide i capitoli in semantica del potere, logica del potere, dialettica del potere, metafisica del potere, ma fondamentalmente il filo rosso concettuale che lui segue è la microsituazione che influenza un soggetto data dalla capacità di influenzare dell'altro, il potere dell'altro. E in base a questo lui dice il mondo funziona così, cioè il mondo funziona sulla base di quanto io influenzo te in quel determinato momento, quanto tu influenzerai il tuo ragazzo, la tua fidanzata e il tuo nonno 20 secondi dopo, è un altro rapporto di potere, è un altro potere, ok? Quindi spezza in milioni di aggregati di potere quelle che poi sono delle scelte vere e proprie. Ma il fatto che il neoliberismo sia strutturato come è strutturato, che ci sia l'iperproduttività, quindi la società della stanchezza che non dorme o quando dorme lo fa male sotto psicofarmaci e via dicendo, è dovuta tutta a questa giustapporsi di momenti di potere, che non è una sommatoria di questi momenti di potere, ma è una sintesi di questi momenti di potere, e da lì si estrae il valore, vabbè, marxianamente parlando, di questi momenti. Quindi qui arriviamo un po' al massimo della di quella che Foucault definirebbe microfisica del potere. Arriviamo proprio agli attimi, ai secondi di relazione tra le persone, di cui non ci accorgiamo, nel senso che io adesso non direi che sto esercitando il potere su di voi e spero che nessuno lo dica, cioè nel senso mi sembra un po' sì, vabbè. Quindi insomma, questo è un po' il panorama che io ho voluto dare. Perdonatemi, io ho parlato un'ora. E volevo... Concludo, scusate, dicendo che appunto quello che volevo dimostrare un attimo io era semplicemente appunto questa inversione assiologica, anche metafisica per certi versi, dell'analisi del potere nelle sue varie sfaccettature. Spero di essere stato abbastanza chiaro, esaustivo, no, perché non potevo e non sarei in grado probabilmente, però spero di essere stato quantomeno chiaro, di avervi appassionato, e se eventualmente volete approfondire qualcuno di questi temi, ovviamente, attenzione. Perché dico approfondire? Perché io ho saltato, per esempio, per fare giusto un esempio, tutto tutta la dialettica femminista sui rapporti di potere. Io non ho parlato di Naomi Klein, non ho parlato di Bell Hooks, non ho parlato di Angela Davis, non ho parlato di Malcolm X, non ho parlato di un sacco di contributi importantissimi alla filosofia occidentale o no, cioè, occidentale, perché filosofia orientale io non saprei bene da dove iniziare, che sono però altrettanto importanti, Simone de Beauvoir, Simone Weil, cioè, quindi io ho dato una prospettiva che per quanto generale era anche ristretta a un determinato campo, però lo scontro dialettico sul potere è veramente ampio, interessante, e spero che io sia riuscito un pochino in questi momenti ad appassionarvi per farvi poi approfondire per conto vostro. Vi ringrazio e ho finito qua. Grazie. Se avete domande, insulti, suggerimenti, osservazioni, per un po' il microfono è aperto, prego. Sì, sono Alberto, ciao, sono venuto l'altra volta al primo incontro, forse. innanzitutto complimenti perché 2500 anni in un'ora, comunque. Forse l'ultima cosa che tu hai detto, la più interessante su cui concentrarsi, magari uno spunto per il dibattito anche per gli altri. Alla fine, se si vede il potere e si divide in tre grandi periodi, tu hai messo antichità e medioevo insieme, giustamente, poi c'è il liberalismo o modernità, la stessa, cioè più o meno. E questa cosa della libertà, no, di fare ciò che si vuole, cioè alla fine è quello che Berlin diceva, libertà negativa, cioè il fatto che la cosa fondamentale è che gli altri... E non devono limitare la mia libertà, cioè devono limitarla il meno possibile, è questo concetto che nasce col liberalismo, quindi Hobbes, Locke, e ce lo portiamo addosso ancora, perché poi se tu chiedi a chiunque che cos'è la libertà, la prima cosa che ti dice non è la libertà di partecipare, no? Ma la libertà di la mia libertà finisce dove inizia la tua, no? Questa cosa qua. E, però poi non solo questa cosa nasce con Hobbes, con Locke, il problema credo sia che quello che dobbiamo affrontare noi è che dopo raggiunge una dimensione che si mangia tutto il resto, per cui c'è solo quello. Cioè, noi siamo adesso in una fase che non è quella della modernità, appunto il 500 e il 600, in cui la libertà è, cioè, da una parte la libertà, ma perché dall'altra parte c'è il potere politico, quindi il sovrano, e allora c'è questa battaglia non c'è più, ed è rimasta solo questa libertà. Quindi, se tu all'inizio avevi detto giustamente che cos'è il potere, è la capacità di influenzare il comportamento altrui, o con la mia presenza o con la minaccia di una sanzione alla fine, no? Con la minaccia del fatto che io ti posso fare del male in qualunque modo. E adesso questo potere, cioè capacità di influenzare, è da tutte le parti. E io vorrei, non è una domanda, ma sarebbe un intervento, cioè far riflettere sul fatto che la nostra influenzabilità è, direi, totale. Per cui il cellulare, internet, certo hanno portato una grande libertà, libertà di muoversi, di fare le cose velocemente, ma poi d'altra parte io immagino ogni tanto se Foucault fosse vissuto adesso, cioè probabilmente gli sarebbe ammazzato, o sarebbe diventato come Byung-Chul Han, che scrive le cose che scrive, e se voi leggete i libri di Han, che sono interessanti, sono belli, alla fine ti viene ad ammazzarti anche te. Il realismo politico, Fischer si è ammazzato poi, no? Cioè, avete presente, no? Perché la questione, credo che finisco, sia rendersi conto che non tanto c'è un complotto in cui c'è il potere con la P maiuscola, ma effettivamente siamo arrivati in una situazione che è partita dal 500 al 600, in cui tutto quello che ci rimane è... e dire voglio essere libero dall'impedimento altrui, ma tutta la zona comune, no? Per cui tu non hai parlato di Hannah Arendt, ma Hannah Arendt secondo me è proprio il punto da cui ricominciare. La zona comune, il pubblico, ciò che si può decidere insieme in un discorso, parlando insieme e poi decidendo, è diventata quasi inimmaginabile per noi. E lo è per noi che abbiamo 30-40 anni, ma per i ragazzi giovani, ancora più giovani, che hanno 15 anni e che sono nati con lo smartphone in mano, lo sarà ancora di più. E questa per me è una cosa drammatica, per cui non è che tanto che abbiamo perso la battaglia nella dimensione comune, è che adesso quasi la dimensione comune non è neanche più pensabile. Quindi ogni problema è individualizzato, la soluzione è individuale, e questo insomma è difficile, poi l'ho detto anche l'altra volta quando abbiamo parlato di un altro argomento, è quasi impossibile concepire e capire come si deve uscire da questa situazione, perché poi alla fine la politica, che sarebbe quella deputata, è lì, è morta per tantissime ragioni. I tentativi sembrano sempre un granello un granello che non sposta nulla, no? E niente, me l'ha fatto venire in mente perché tu giustamente hai fatto questo percorso sottolineando queste due parti, e basta, niente. Buonasera. A me è molto simpatico Han, e mi domandavo se Han riuscisse a darci una prospettiva che non sia solamente gravemente pessimista come quella di Fischer, che ha fatto una brutta fine. Han, a differenza di Fischer, è vivo. E già è tanta roba. Si vede poco, ma è vivo. E Han ha detto una cosa, cerca di porre l'attenzione sull'etica. E tutto qua. E questo sarebbe un aspetto da esplorare. Un esempio pratico, Han ha fatto un bellissimo trattato sull'uso dei droni nella guerra, dicendo che le guerre recenti non sono più delle guerre, ma sono delle azioni di polizia, e come tale si trattano l'avversario come un criminale. E dunque, a differenza di una guerra che invece è trattabile, un'azione di polizia non è trattabile, perché col criminale non si tratta. E dunque invoca un ritorno all'etica per un ritorno, insomma, invoca un'azione etica. Sì, poi per esempio non abbiamo parlato del potere dei mezzi di comunicazione, cioè Damian Palano scrive Bubble Democracy, che è esattamente questo, la democraticità della bolla social, di quanto è pacifico che i nostri gusti siano registrati ma modellati e creati dai social network, che stanno prendendo il posto di quella che era la televisione. Non è un caso che tutto parta dal 70, 1970, che è la terza rivoluzione industriale, che è la rivoluzione del messaggio, del contenuto. Luhmann l'aveva previsto. Quindi è tutto molto interessante, e speriamo che possiamo rifletterci sempre, sempre di più, e magari contrattaccare. No, vabbè, battuta da parte, ringrazio Norbi per questo excursus. Come diceva prima Alberto, è stato un bel viaggio, 2000 anni di concetti del potere. Faccio una piccola aneddoto stupido. Ieri sera sono finito a una riunione di un partito, non lo sapevo, mi sono trovato lì, sono stato così, mi si dice, incastrato dalla mia compagna, che per una volta mi invita lei a vedere un'assemblea, di solito sono io che la tiro in mezzo, andiamo a vedere che sarà sulla Palestina. Allora, pensate, quando arrivo lì inizio a, cioè, capisco, guardo sul telefono, cerco di capire cos'è, è la riunione di un partito, possibile? No, possibile, possibile, non lo sapevo neanche che esisteva. E si parlava, ovviamente, la domandona, dato che il fulcro della riunione era un'assemblea aperta sulla questione della Palestina, cosa possiamo fare, quindi la questione del potere rispetto al fatto di cosa possiamo fare noi, cittadini, cittadine attive, eccetera, cioè qual è il nostro potere. La cosa su cui io riflettevo è che, come tutti quanti immagino, noi che facciamo politica, cioè facciamo politica tra virgolette, noi che facciamo parte del collettivo ZAM, ciò che chiamiamo molto spesso, ma in generale magari anche chi questi posti li frequenta si domanda cosa possiamo fare, e la risposta è niente, perché il sindacato non fa lo sciopero, i partiti politici che fanno cose serie non esistono, le persone hanno smesso di credere nelle collettività, non esistono più movimenti di massa, ci siamo appunto negli ultimi 30 anni assuefatti l'idea che il mondo non può cambiare, non c'è più il potere di cambiare il mondo, perché ha vinto gli Stati Uniti d'America, l'Unione Sovietica si è dissolta, la storia è finita, abbiamo finito tutto questo. Io la cosa che ho cercato di dire, ma l'ho capita solo oggi, la cosa che cercavo di dire ieri ma non riuscivo a dire ieri, è questa. Cioè, noi abbiamo, noi dell'Europa occidentale che è uscita dalla Seconda Guerra Mondiale ed è stata colonizzata dagli Stati Uniti d'America, abbiamo il concetto della fine della storia e che quindi ha smesso di esistere la possibilità di un'alternativa al capitalismo, ma il resto del mondo, quella roba lì, non ce l'ha mai avuta. Non ha avuto la fine della storia, ma perché ovviamente non è entrato nemmeno nella nostra di storia. E noi non ci arriviamo perché non arriviamo a pensare che il mondo non ragiona con il nostro cervello. Cioè, una persona di 30 anni che è cresciuta in Uganda, una persona di 28 anni che è nata nell'Hubei, in Cina, una persona di 30 anni che è nata in Indonesia, una persona di 30 anni che è nata anche in Russia, non hanno la nostra visione della storia. E loro il potere non è che si dicono non possiamo fare niente perché ormai la storia è finita, come dimostra la storia recente, perché trentenni della striscia di Gaza sono andati all'attacco di reti metalliche contro l'esercito più forte del mondo, hanno fatto 70 chilometri ammazzando 1200 persone, perché per loro la storia non era finita, perché loro la loro storia se la costruivano giorno per giorno, ci credevano, ci sono andati e hanno fatto un pezzo di storia. Cioè, gli sfiduciati senza potere siamo noi, che siamo all'interno di quella visione e non capiamo che fuori dalla nostra visione, fuori dal nostro mondo, dal nostro pezzo di mondo, il resto del mondo, cioè, la storia continua davanti e c'è il potere. Quindi una cosa su cui forse sono arrivato oggi a ragione rispetto a ieri è che bisognerebbe ascoltare chi, vivendo, essendo vissuto e cresciuto cresciuta in altre parti del mondo, ha ancora dentro di sé il concetto che la storia la faccio io perché io ho il potere di farla, perché in generale si può fare. Solo che dal nostro punto di vista non conti niente, perché tanto se esci da qua e urli qualcosa, chi ti ascolta? Se fondi un canale TV, ma chi ce li ha i soldi? Ma, e di nuovo, chi ti ascolta? Provi a dire qualcosa in faccia ai politici, ti picchiano, la polizia ti malmena e nessun giornalista parlerà di te. Provi a fare dell'antifascismo e vieni mandato in, vieni tenuto in catena in un carcere in Ungheria. Qualsiasi cosa che tu provi a fare non funziona, ma qui, fuori da qui, nel resto del mondo, dove funzionano ancora i cannoni per fare la storia, la battuta più divertente che penso di aver fatto negli ultimi anni era che tutto sommato qualcuno ha fatto ripartire la storia a cannonate quando ha invaso l'Ucraina, e noi ci siamo svegliati dicendo cazzo, ma è incredibile, il mondo continua a girare, il Novecento è un secolo difficile da uccidere, perché forse puoi togliere un uomo dal Novecento ma non il Novecento dagli esseri umani, per cui cioè, nel senso, c'è della gente che ha del potere e forse bisognerebbe ascoltare loro, i loro modi di pensare, i loro modi di riflettere, per vedere chi nel mondo ha ancora potere di fare le cose. Che noi magari ci sentiamo di aver potere quando in realtà non è così. Scusatemi lo sproloquio. Prego. Soprattutto scusatemi per essere andato alla riunione di Impossibile, cioè, così, per sbaglio. Facendo un'autoanalisi di tutti questi anni, un po' ricollegandomi al discorso che l'ho fatto prima, ma sintetizzando il concetto di potere oggi, dobbiamo andare su certe argomentazioni, che non certo io sono il maestro di queste argomentazioni, perché di sicuro le conoscete molto meglio di me. Però bisogna fare un'analisi approfondita del perché del fallimento, che poi, attenzione, non è fallimento, ma è un momento di stasi, di transizione, come lo volete chiamare. Però analizzando la situazione dei fatti oggi, il potere non è che diciamo è cambiato, il potere se solamente come posso dire ammodernato, diciamo, perché le cause e le concause di questo potere, specialmente oggi, in realtà sono sempre le stesse, solo che hanno subito una semplice metamorfosi, e vengo al dunque di tutto quello che voglio dire. Uno dice, ma cosa sta dicendo? Dunque, partiamo dall'analisi opposta a quello che oggi ci impone il capitalismo, che dal 68 si è molto evoluto oggi rispetto a ieri, perché il capitalismo ha capito come doveva bloccare le nostre forme di lotta. Noi ne avevamo già poche, però avevamo la capacità e la possibilità, soprattutto, attenzione, la possibilità di avere una controparte. Ai tempi, nel 68, vi faccio un semplice esempio, potevate identificare chi era l'avversario, perché uno come Agnelli era un avversario, però era presente. Notate che oggi il potere è diventato fantomatico. Voi potreste parlare di potere, ma non identificare mai chi è la controparte. E questo è già una cosa che bisognerebbe piano piano cominciare ad analizzare. Però ritorniamo sempre ai discorsi di prima. Signori, qua nessuno ha avuto il coraggio tutt'oggi di dire che la crisi viene ed è sempre venuta. Non lo dico io, lo dicono gli storici. Parliamo dell'accordo di Yalta. A Yalta si sono divisi il mondo, e a tutt'oggi il mondo è ancora più diviso. Nessuno ha il coraggio di dire che dietro tutte queste politiche negative e fallimentari capitalistiche ci sono sempre gli americani dietro. Probabilmente io ho un astio, un livore, un odio verso gli americani, è la razza peggiore che ci sia. Se c'è una razza che io definirei, non loro che dicono a noi quando arriviamo negli Stati Uniti, ammesso che ci arriviamo, perché la prima domanda che ti fanno molto intelligenti gli americani, eppure hanno la più grande università del mondo, dicono Harvard, la prima domanda che ti fanno di una difficoltà estrema, ma tu sei comunista, ma coglione, ma se io volessi venire negli Stati Uniti o a mettere una bomba, o imparare, o andare a una facoltà ad Harvard, lo vengo a dire a te, cretino, se sono comunista. Anzi, io sono il più nazifascista come voi, perché se esistono dei nazifascisti, signori, sono gli americani. Attenzione, non sottovalutiamo. Tutto quello che noi stiamo pagando, se voi analizzaste quello che sta avvenendo nel mondo, non c'è un punto, un posto dell'umanità dove non arriva il marcio americano. Quando parlo di marcio americano, io parlo di economia americana, un'economia capitalistica che sta implodendo. Loro sanno di implodere, sanno benissimo che è la politica più fallimentare che ci sia. Guardate che lo stesso comunismo che possa essere stato sovietico ai tempi di Mao Zedong non sarà mai fallimentare come il capitalismo americano. Guardate Amazon. Sono arrivati al punto talmente, ma da imbecilli, non so se avete seguito, quando si fa volantinaggio davanti ad Amazon, sapete cosa fanno? Non so se l'avete visto in televisione. Scandiscono diversamente i tempi dei semafori, di modo che io, mentre ti sto dando il volantino, arriva rosso e mi vesti. Siamo arrivati a questo paradosso. Ora, se analizzate la politica internazionale, non c'è posto dove non ci sono dietro gli americani. Biden a parole dice: ma io ho parlato con quel coglione di primo ministro, io ce l'ho anche con gli israeliani, attenzione, non con gli ebrei. C'è una netta differenza, sta sostanziale la differenza, no? Io ho parlato con Netanyahu, gli ho detto che i palestinesi hanno i loro diritti. Intanto stanno morendo 30.000 palestinesi. Direi che, non volendo esagerare, perché se no dicono: oh, cazzo, ma tu sei contro gli ebrei, ce l'hai con la Segre, per l'amor di Dio. Lungi dal pensare una cosa del genere, però quando mi fai fuori 30.000 palestinesi, bambini, e nessuno alza un dito nel nostro Parlamento, avrei notato l'Olocausto, lo riconosciamo, ma lo riconosco anch'io. Io non sto dicendo che non sia esistito, sono i loro amici, quelli che fanno il saluto romano. C'è una deriva neonazista e fascista come non c'è mai stata. Avete visto in Ungheria? Probabilmente quella ragazza a cui hanno messo il collare. Il signor Salvini si è permesso di dire: ma io non la vorrei come insegnante. Probabilmente lo sbaglio di questa ragazza è stato quello di prendere a calci forse quelli che Salvini voleva come insegnanti per i suoi figli. Perché vi rendete conto che quando noi assistiamo a una deriva nazifascista come sta succedendo in Europa, dietro, comunque ve lo dico per esperienza, e questo parte dagli anni 60, le stragi di Stato che ci sono state, ci sono sempre stati gli americani. Il processo Moro è finito come volevano loro. Moro è stato ucciso dagli americani. Ora, nel momento in cui noi ci troviamo di fronte a un potere che è la degenerazione di tutti i poteri possibili e immaginabili che abbiamo vissuto a tutt'oggi, e ci facciamo imporre la politica americana, perché non ci illudiamo, noi siamo una colonia americana. Penso che ne siate consapevoli tutti quanti che siamo. Quindi non si muove foglia che gli Stati Uniti non voglia. Partendo da questo fatto, però, volevo concludere una cosa. Noi stiamo perdendo il potere, perché non solo sto notando che siamo tutti disillusi da questa politica che è in fase di ristagno, ma vi rendete conto che voi, delle forze che dovrebbero essere dalla nostra parte, sono forze che sono passate dall'altra tanto tempo. Una per tutte: se abbiamo un'arma in mano è quella dello sciopero, no? È l'unica arma che abbiamo noi lavoratori, lo riconoscete questo? Quando cazzo mai si è visto che che uno sciopero viene regolamentato. Ma se io con la mia arma, con lo sciopero, non creo disagio sociale, a cosa mi serve fare lo sciopero e combattere? Hanno polverizzato tutti i contratti possibili e immaginabili. In una nazione civile ci dovrebbe essere un contratto rispettato da tutto, da tutte le forze sociali, ma che desse dei diritti ai lavoratori. Qua i sindacati non hanno fatto altro che polverizzare per arrivare a che cosa? A 3,50 euro all'ora. Quindi, signori, la disillusione è imputabile a questo. Dietro ci sono delle grossissime forze, ecco perché noi non riusciremo a conquistare almeno per il momento qualcosa. Io dico solo, come ho finito ieri all'assemblea dei grandi uomini di ieri, a me dispiace, dovevate essere presenti. Uno per tutti era Gabrielli, sapete chi è Gabrielli, l'ex questore, no? Che io più che Gabriele lo chiamerei il Nazareno Gabrielli, perché sembra più un modista che un ex capo di prefettura. E poi c'erano le varie forze, il PD, i migliori amici dei nazifascisti di oggi. Sono quelli che quando hanno quella saccenza, quando ti guardano, come dire, ma noi facciamo, noi vedremo. Fanno tutto a favore di quelli là, perché non c'è un'opposizione come si deve che dica una volta per tutte alla destra. Adesso dovete finirla. Comunque, conclusione, io sono di Gratasoglio e ne vado orgoglioso. Vorrei che fosse fatto un murale, ho chiesto a mio figlio, all'entrata di Gratasoglio. Stalingrado, benvenuti a Stalingrado. Con questo finisco. Comunque, signori, non è tanto il brutto. Io vorrei una convinzione di tenere duro. Ho detto, teniamo duro noi di Stalingrado, ma teniamo duro noi delle zone sud e cerchiamo di avere un po' di forza tra noi, perché se ci aspettiamo un aiuto dai nazifascisti, signori. Scusate, che mi sono dimenticato. Quando è il prossimo appuntamento di Parola per Dirlo? Un attimo. Sono le 10:30, fino all'una, alle 2. Sì, infatti, io sono venuto qui per far la nottata. Allora, intanto grazie della serata, è la prima volta che vengo a questi incontri e devo dire che sei stato brillante e sicuramente di grande aiuto per un ignorante come me in materia, che mi hai fatto fare questo volo nel corso dei secoli. E sono d'accordissimo con l'ultimo compagno intervenuto sul fatto che quello che manca probabilmente è chi possa esercitare il potere collettivamente, ad esempio appunto coi sindacati. Uno pensa che quello che manca oggi è il fatto che di fronte a un genocidio in corso ci sia un sindacato che convochi uno sciopero generale. Alla fine, una volta si facevano gli scioperi anche per quello, che non è, come dire, una causa secondaria. Nei tanti voli che mi hai fatto fare, mi hai fatto riflettere su quello che è il condizionamento del potere, nel senso che, senza saper usare appunto i termini correttamente, l'esercizio del potere mi è sembrato che tu lo descrivessi anche attraverso il soprattutto in una fase contemporanea quasi moderna, un qualcosa che ci viene da un condizionamento che poi quasi andiamo ad autoesercitare. E in questo senso mi viene da vedere, non so se sia corretto, anche, come dire, il condizionamento di quello che mi sono messo adesso in tasca, dei cellulari, dei social network, così come sostanzialmente una polizia che ci autoinduce a omologarci rispetto a ciò che è giusto, ciò che è sbagliato, e anche magari in termini di genere, di appunto di giustizia, di quello che possiamo rivendicare piuttosto che non, E poi non c'è più bisogno di una polizia che, cioè la polizia magari arriva dopo a manganellarci, a dire guarda che te l'avevo detto che questo era sbagliato, ma prima siamo noi ad autolimitarci in quello che vogliamo rivendicare e sognare, perché tutto sommato c'è, come dire, un limite ai sogni, che è dato dal fatto che cos'è che piace, in che cosa ci sentiamo accettati da una collettività, in che cosa invece ci sentiamo esclusi, in che cosa ci sentiamo alla moda e in che cosa ci sentiamo invece quelli che devono trovare una posizione nel mondo. E questa cosa qui mi sembrava che in Foucault, mi sembra che in qualche modo mi insegnassi che ci fosse questa riflessione, che insomma non c'è più bisogno di un esercizio del potere di tipo repressivo, ma che ci auto reprimiamo in qualche modo. E nel mio percorso personale, diciamo, io arrivo da un percorso di tentativo di militanza con Rifondazione, con diciamo comunista, e quindi mi sono interrogato nel tuo viaggio, aspettavo che mi citassi Gramsci e la sua riflessione sull'egemonia, perché in qualche modo non voglio rinunciare all'utopia di conquistare il potere, quindi dico come facciamo ad arrivare al potere. Sono ancora convinto che la sua proposta sull'egemonia, cioè sul fatto di trovare qualcuno che ci aiuti a dialogare e a imporci rispetto a un pensiero comune, sia fondamentale. Cioè, io penso che una serata come questa, in cui tu metti a disposizione di una collettività il tuo sapere, ma in generale, cioè il fatto che chi sa si metta a disposizione di una collettività e cerchi di far crescere la collettività, sia fondamentale, e sia fondamentale avere, rimanendo magari in una dimensione un po' più popolare se non pop, avere gli zero calcare che fanno gli ultimi intellettuali e ci aiutano a essere in qualche modo alla moda, ma nel senso che ci permettono di dialogare con i ragazzi di 20 anni o di 15 anni che arrivano da percorsi totalmente diversi dai nostri, e in qualche modo ci aiutano a trovare delle parole, dei disegni, delle immagini, e con cui possiamo dire le stesse cose. Per cui adesso che ci ha aiutato a definire potere, secondo me è bene continuare a sognare di conquistarlo, per cui cercare di riflettere anche su come si fa a conquistare questo potere. E secondo me il concetto di egemonia, tutto sommato, per quanto ha più o meno un secolo, sia ancora da rivendicare, da studiare soprattutto, perché è ancora da imparare. Grazie ancora. Ok, io volevo in realtà collegarmi, beh, in generale un pochettino a tutti i discorsi, perché il fulcro è quello, ma al compagno che laggiù aveva fatto il... adesso sta chiacchierando, esatto. E riguardo al fare qualcosa perché effettivamente le cose cambino, e all'impossibilità di questo cambiamento. Secondo me un tema centrale è come concepiamo la politica, quindi anche il potere politico, e in quali schemi vogliamo muoverci per attuare poi un cambiamento politico. Sarò estremamente conciso perché poi me ne devo andare. Se noi continuiamo a concepire la politica negli stessi schemi borghesi, fondamentalmente dominanti, finché continuiamo a concepire la politica quindi come politica rappresentativa, dove la mia vita politica è in realtà inattività politica, cioè io l'unico momento in cui effettivamente agisco a livello politico è durante le elezioni, quindi una volta ogni 4 o 5 anni se dura il governo, le cose non cambieranno, perché la politica e in generale quindi l'organizzazione umana fa gli interessi di chi effettivamente partecipa all'organizzazione umana. Finché noi continuiamo a farci comandare, quindi a farci organizzare da chi votiamo, non possiamo pretendere che come ci organizziamo, cioè il fine della nostra organizzazione sia a nostro vantaggio, ma a vantaggio di chi ci organizza. Quindi nell'economia capitalista al fine di riprodurre capitale. Fine. Cioè, cosa è politico, cos'è impolitico, cos'è neutro, è un discorso che è puramente egemonico, perché tutto il campo di gioco, anche come dici te, che cos'è l'attività politica, chi lo definisce, è l'ideologia dominante. Quindi cioè, il discorso di Gramsci è interessante perché poi alla fine ti dice, alla fine la battaglia di idee la vince sempre uno, non esiste una cosa neutra, quindi il mare in cui nuotiamo noi adesso... E quelli in cui, ma faccio un esempio qualunque, in cui vai in metropolitana ci sono le pubblicità, ma chi l'ha detto che io quando vado in metropolitana devo vedermi 20.000 pubblicità? Ma il fatto che io lo consideri neutro è la vittoria dell'egemonia non liberale. Effettivamente uno dei grossi problemi nostri, credo, è, ne abbiamo tantissimi, ma il primo è non vederci un po' da sopra e quindi non capire le tendenze macro, quindi quella per cui geopolitica ovviamente. Cioè fin quando noi pensiamo di essere indipendenti ma siamo ancora nell'onda lunga della seconda guerra mondiale, perché questo è, e poi purtroppo la battaglia delle idee è completamente persa, l'avevo detto anche l'altra volta, c'è un libro interessantissimo di Marco De Ramo che si chiama Dominio, è un sociologo che fa questa storia, perché questa storia qua si può studiare, cioè come la battaglia di idee dagli anni 70 è stata persa completamente su tutta la linea e adesso noi viviamo in questa sconfitta in cui c'è inconcepibile pensare un'alternativa. Però effettivamente penso come te che fin quando poi noi rimaniamo in questi in una cornice in cui di fatto la politica non esiste, perché forse quando ci studieranno in futuro, ci studieranno come il tempo in cui le democrazie, la democrazia nata nel 700 e l'800 aveva finito la sua propulsione, eravamo l'età in politica. In politica per definizione, perché noi non facciamo nulla. Perché in cosa consiste la nostra... Cioè il cittadino è pura funzione, dov'è sto cittadino? C'è il lavoratore perché lavoro tutto il giorno e adesso devo andare a casa anch'io perché domani devo lavorare. C'è il consumatore perché devo comprare sempre, ma il cittadino non c'è. E quindi effettivamente noi probabilmente avremo bisogno di fare quello che hanno fatto nell'Ottocento quando hanno detto vogliamo una rappresentanza, che era per l'epoca era tanto, adesso dovremmo dire vogliamo che anziché lavorare 8 ore al giorno facciamo magari lavoriamo 5 e 2 ore pensiamo alle robe che ci stanno attorno. Però purtroppo la tendenza di noi quello che ci sta attorno noi siamo sempre tirati fuori, perché poi con tecnologia dell'informazione la prossimità non la vediamo neanche più. Quindi, non so, sono tantissime cose, mi rendo conto, poi è difficile cominciare. Però probabilmente io sono d'accordo con te, fin quando si sta in questo quadro è difficile che le cose cambino. A un certo punto, un po', bisognerà sparigliare le carte, perché sennò... Vabbè, scusate. Va bene, vi ringraziamo per essere stati qua, speriamo di essere stati e ci vedremo prossimamente. Google suggerisce mille date che non me lo ricordo. Ok, ci vedremo tra più o meno il 6 marzo con l'altra puntata di Filo Zan, speriamo di rivedervi. Grazie. Meritocrazia, grazie a tutti.